arrivi oggi non ti fermerai e crei fantastiche visioni del mondo tra celesti e arcobaleni. Tu che scolpisci le tue storie per ricordare il tempo che va. Questo sole freddo che scalza, il tempo passato, per quanto il tempo importi lo so, perché non ci sei più, dopo appena due parole. Ragione. Dove vai? Come va bene? A piedi sul mare. Questo viaggio alieno a piedi sul mare.